www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto sembra viaggiare sui soliti binari, Cappa e Drago vengono a sapere dello scandalo dei polli fotografati. C'è oggi in fabbrica un'agitazione pazzesca. Cos'hanno oggi i polli? Non lo so, non lo so. Chiedilo al pollo in sbattimento. No, che... io non mi avvicino nemmeno. No, lo vedo abbastanza. Dai, pollo in sbattimento. Fermi. Calma, che oggi è una giornata. Cosa c'è? Ve lo dico subito. Ma si vede. Non chiedetemi niente perché sono in silenzio stampa. Ma che silenzio stampa? Dai. Non fate finta di non saperlo, Cosa? Cosa? Qualcuno qui dentro ha fatto un fotomontaggio in cui si vede l'amministratore delegato in atteggiamento inequivocabile con me. Con te. E qual è questo atteggiamento, scusa? Non ho detto silenzio stampa. Vabbè, allora, ma che senso ha il silenzio stampa, scusa? Ci hai detto tutto fin qui, poi se hai la coscienza a posto è meglio che le cose le spieghi piuttosto di startene zitto, no? E quindi Non lo so. Io soffro di fobie sociali. Beh, questo lo sappiamo, appunto. Sociali. Allora è ovvio, no? Che mi viene più naturale chiudermi a riccio. Ma sì, un pollo che si chiude a riccio, ma cos'è? La bella fattoria sul mare. Allora, in questo fotomontaggio, che non so ancora chi l'ha fatto, ma se lo becco, vediamo. Si vede l'amministratore delegato che mi tiene sul palmo della mano. Con l'altra mano poi... Con l'altra mano? Ma cosa? Con l'altra mano mi tocca sotto la cosa. Ma no, che schifo! Ma non si può! Infatti ho fatto montaggio, l'hanno fatto con Photoshop! Ma com'è Photoshop? Photoshop! Vabbè, è uguale, no? Però, capo, aspetta, io mi ricordo bene che giorni fa al telefono l'amministratore aveva mostrato uno strano interesse per il pollo in sbattimento. Io, tra l'altro, vorrei frequentarlo da solo, se fosse possibile. Ma chi? Il pollo in sbattimento. Glielo dite voi? Mi aiutate come si faceva a scuola? Va bene. Glielo date un bigliettino con su scritto qualcosa? Cosa dobbiamo scrivere? Non so, pensateci voi, sennò che cazzo di creativi siete. Sennò che razza di creativi siamo? No, beh, non ha detto razza, però diciamo che ha detto così. Effettivamente l'amministratore ci aveva chiesto di scrivere un bigliettino al pollo, cosa che ho puntualmente fatto. Come? Ho lasciato un biglietto anonimo nella cassetta del pollo con su scritto che l'amministratore lo amava segretamente. Adesso posso dirlo. Ma quale lettera? Ma cosa sta dicendo? Io ho altre cose da pensare. No, vabbè, Pollo, l'ho scritta io con le mie mani la lettera. Sì, però anche l'amministratore, scusa, mai una volta che si innamori di una donna come tutti quanti? Prima un gorilla in divisa. Vedi edizione precedente. Poi il pollo in sbattimento. Ma insomma, ma una donna no? Trovale le donne qua, scusa, mai vista una? Galline tante. E allora una gallina, Drago. Una bella gallina. Agnagna. Ciao, bella gallinella. Cosa fai stasera? Ti macellano. Oh, che peccato. Agnà. Ma tu sei un capretto. Agna. E tu chi sei? Sono il tuo papà. Pi, la fabbrica di polli. I 38 giorni di vita di un pollo dalla nascita alla morte sono un po' come i 38 giorni di sopravvivenza di una gallinella nel circo mediatico. Sì, in quei 38 giorni bisogna che si scattino delle fotografie che finiscano sulle pagine di un giornale per rendere quella gallinella un personaggio pubblico. Anzi, ti dirò di più. Un personaggio pubblico! Foto compromettenti, come quelle dell'amministratore delegato col pollo in sbattimento. Però questi 38 giorni di sopravvivenza della gallinella nel circo mediatico comprendono anche cene con uomini grassi e pelati che le dicono: Agna, Agna, hai molto talento. Posso farti fare delle cose, a cominciare da Agna, Agna, Agna. Sì, ma poi, una volta che l'uomo grasso e pelato Agna, Agna, Agna, la gallinella in questione perde automaticamente tutto il talento e si ritrova sull'orlo del precipizio, il tritatutto della fabbrica di polli. Quello che mi chiedo è se i corrispondenti maschili della gallinella, cioè come Costantino del Grande Fratello, abbiano lo stesso destino, cioè cene con uomini grassi e pelati che gli dicono... Vabbè, spero vivamente di no, perché sennò... Sennò cosa? Sennò devo credere che questi qui, questi uomini pelati e grassi, ci provino indistintamente con maschi e femmine. Insomma, non è una bella cosa questa promiscuità indifferenziata. Vabbè, ma scusa, no? Guarda il pollo e l'amministratore. Sono due maschi, vabbè, promiscui e indifferenziati. Ma no, è un fotomontaggio? Sì. Insider Trading. Finalmente. If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. L'importante è che si divertano anche loro. Questo l'hai detto tu. No, non lo posso dire. Non lo posso dire perché ho due bambine. E anche se non ce l'avessi, mi metto nei panni di chi ce le ha. E quindi non mi far dire questo, no? Perché minorenni? Minorenni, cioè, quanto minorenni? Post puberi? Joao, allora, anche oggi digiuno, capito? Al massimo bevi un po' d'acqua, ma poi basta, eh? Eh no, ma no, non cominciare a fare il broncio, eh? Te l'ho già spiegato? Tu devi rimanere piccolo. E guarda che poi non è difficile, basta mangiare poco. Anzi, all'inizio è meglio proprio il digiuno totale. Poi tra qualche giorno magari mangi un po' di mais, ma senza esagerare. Perché qui, se mangi tutto quello che ti danno, tu aumenti di peso da 40 grammi a 2 kg in poco più di un mese. Invece se mangi solo quando hai proprio fame, rimani pulcino per qualche mese in più. E poi vedremo, no? Allora, ricapitoliamo. La tua dieta sarà: al mattino appena sveglio, acqua. Al pomeriggio, acqua. Alla sera, acqua. Fermo. Acqua ed enteroclisma, cioè che sarebbe un clistere, no? E poi c'è la notte. E la notte niente. Ma episcopale? Episcopale? Tu? Ma no! Tu sei ancora piccolo, episcopale. Episcopale devi essere sviluppati, Tu sei ancora mezzo uovo e pretendi l'episcopale. Episcopale? Ma no! A digiuno non si può episcopale mai, capito? Episcopale. Che cosa succederà adesso? Lo scandalo dei polli fotografati è già rientrato o stiamo semplicemente perdendo di vista una parte della storia? Per saperlo, dovrete soltanto trascorrere il weekend ripensando a tutta la faccenda e poi sintonizzarvi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi ineguagliabili allestimenti dei... La fabbrica di polli produce... La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.